attenzione sul 10, c'è qualcuno. Avanti. Signor Gianni! Oh, signor Gianni! Attenzione sul 10, c'è qualcuno. Ciao danzerò disorgogliamenti, buonasera. Io ho chiamato, ciao, ho chiamato, poi praticamente ho visto che non c'era nessuno, me ne sono andato in FM, capito che c'era gente, stavo ascoltando. E allora... E allora... Ma pioggia tutta per le prese. L'altro giorno sì. No, adesso no. Adesso, perché piovendo sta adesso? No, adesso no. Ma ne sta facendo. Però ha messo pioggia. Ha messo. Bisogna approfittare quando non piove a portare il cane, che se no da buchi di velubane. L'altro giorno ho fatto... Sono uscito che non stava piovendo. Ho tenuto un'imbarriata di goppe, sono andato sotto un albero, poi sono entrato da ditta lì nel supermercato che c'è vicino a casa perché c'è la tettuia e mi sono messo lì sotto, ma un'imbarriata è tutto allucinato, se mi prendeva in mezzo mi avrebbe fatto come il pulcino. No, io ieri mattina che sono uscito con lui che non stava piovendo. Arrivo a metà e comincia a fare Eva. Ma sono dovuto entrare sotto il portico di quelle palazzine che ci sono dall'altra parte di fronte al campo. Sotto lì me ne sono dovuto andare in mezzo, passare in mezzo all'erba. Fatto le volte a beffa. Sei coccoma, sì. Ciao. Buonasera. Buonasera. Ma Tore, tu che tu sappia, quelle... come si chiama? Quel laboratorio di analisi che c'è a Zedolce, è chiuso e sono andato un'altra mattina aspettando, non le ha viste. Cosa pensa che è rimasto chiuso? Perché era chiuso un paio di giorni, era chiuso. Che cosa vuoi dire? La settimana scorsa. Ho visto che c'era il cancello chiuso, di solito è aperto. E allora sono andato via a Pasubio. Mi hanno fatto pagare un'analisi, mi hanno fatto pagare 22 euro. Cosa pensa che quella analisi lì non era coperta? Non c'è proprio sanzione. Esenzione, non sanzione. Avanti. Migliaia. Già. Io ho pagato per fare i prelievi. Lì viene Umberto. Ho pagato. 3,50 euro mi pare. E beh. Cosa mi hanno messo la portante? No, l'hanno messa dopo che tu hai parlato. E lui, io ci andavo lì, poi da quando c'è stato il Covid era tutto un casino per andare da lì e poi non sono più andato. Prima andavo sempre lì anche io. E niente, ho visto che la glicemia era a posto, tutto quanto. Non ho valori sballati per il momento. Avanti tu. No, io mi tra poco ci dovrò andare, fra 1 o 2 settimane. Okay, dovrò andare a farmi le analisi. Perché mi deve chiamare, a dicembre mi deve chiamare quella la signora Pina, dottoressa Pina, sua Arizzedo. E meglio ti vedi ai cibi. Già mi hai capito, sono al centro diabetico. Io ho capito, sto scherzando. No, io devo andare il 1° di dicembre, quindi ho fatto le analisi adesso e le devo ritirare perché questa analisi qui mi hanno detto che è più lunga delle altre. Ma tu devi venire a metà settimana, però prima chiami per vedere se è pronta, perché se guardi che lunedì devo andare a fare l'esame, a fare la visita, e lui mi ha detto sì, ma dovrebbe essere pronta. Fate. Vabbè, c'è una mese va vedere. Chi è? Avanti. Vabbè, avanti. Tutti molti, ma sto uscendo, sì. A voglio se stai uscendo, a meno che non ti intendono gli altri. Io conosco un proverbio che dice non c'è peggio un sordo di chi non vuol sentire. No, io quando vado lì via Pasibio me li scarico direttamente. Ho fatto prima. Stamattina li faccio la sera verso le 5 me le scarico. Ma io sono rimasto indietro col computer, ce l'avevo il computer e vabbè, adesso non va più, l'ho messo da una parte, ho regalato tastiera, mouse, tutto quanto. Adesso se riesco a vedermi il monitor, che è un Samsung da 27 pollici, lo sto vedendo se interessa a qualcuno. E poi i computer di un rampo, basta, non voglio spendere altro di su. Perché non funziona? Ma funzionava di colpo a caso, sono andato a accendere, non accendeva più. Cioè accende, però non trasmette l'immagine al monitor, capito? C'era la scheda video, sicuramente si è bloccata la scheda video. Lo so, ma non voglio spendere altri soldi, dai, ci ho speso già 200 euro, rubi di nuovo e buonanotte. Non fai prima che è meglio. Ho comprato il monitor, cavo, e poi 100 euro per aggiustarlo, l'ho aggiustato e dopo un po' aveva fatto questo difetto. Sicuramente, siccome aveva preso un fulmine praticamente, era spento, però c'è stato un fulmine e l'aveva... E Luca me l'aveva aggiustato, capito? Andava bene, tutto gatto, era perfetto. No, io stavo adoperando ancora il portatile vecchio che funziona, ho messo quel trattennilisso ancora, finché va, mi adopero quello, Windows 7, invece di due Windows, quello nuovo che ho è Windows 11, ogni tanto lo accendo, mi sto adoperando questo qua, e mi trovo ancora, non è veloce, ma... già continua a andare. Solo che poi non ti fa più gli aggiornamenti, capito? Anche io ce l'ho Windows 7, però è lento, non fa più. Luca, si può potenziare il mio, quello da un giga? Pronto? Ci sei tu? Si deve essere assentato. Ha fatto tutto. Ciao Manuel. Io dico che poca gente ce l'ha come quello lì, il computer, quello che c'ho io. Il mio è di quelli professionali, di quelli che si accendono tutti, c'ha una scheda che costa 400 euro. No, basta che puoi mettere un altro giga, due giga che puoi aumentare. Ma lo sai cos'è? Che è un busoletto, quello che c'ho è un Acer, quello piccolo, ce l'hai presente, che sembra un tablet. E quello lì andava bene sino a quando c'era Windows 7, poi adesso non fa più gli aggiornamenti, ogni tanto ti chiede qualche cosa, si blocca, lo devi aggiornare, però non te lo fa aggiornamento, è un casino. Sì, ce l'avevo anche io, un 10 pollici, è un 10 pollici, io ce l'avevo dell'Asus. Vabbè, comunque, quello che c'ho io, il case che c'ho io, è professionale, fatto a pezzo, capito? L'aveva fatto mio figlio, ci aveva messo una scheda video da 400 euro, non ti dico altro, perché lui gioca, capito, col computer anche. Sì, no, ma già l'ho paramentato. Solo 2 giga mi sembra che puoi aumentare. Vabbè, quello è un bel letto. Tra la pagina e l'altra puoi andare a cucinare, ritornare e ancora lo sta facendo. vabbè, e cosa vuoi fare? Se non si spende molto per aggiustarlo, lo aggiusto, perché è un peccato, cazzo, è bellissimo, tu quando accendi il monitor si illumina tutto il monitor, adesso vabbè, l'ho prestato a Marco, mio figlio, la tastiera illuminata, il mouse illuminato, tutto bellissimo, si fa tutto blu, poi puoi cambiare i colori. E sono quelli della Germi, la tastiera. È una bella tastiera, si illumina tutta, cavolo, anche al buio puoi digitare. Torre, senza motore, senza benzina, torre non cammina. Sì, sì. Stasera mangio un bocco di guanti, su Manzano mi lascio fatte buoni i lampadini bianchi in macchina. So che ancora no, non me l'ha fatto bagare. Cosa hai messo? Le lampadine bianche ho messo. Ma non mi parla di lampadine, sai cosa mi è successo? Sta dove può cenare, no? E mi è venuto in mente io di quelle lampadine a palla, di quelle grandi, no? Nella cucina che illumina tutto il giorno, di quelle a letto. Mi ha detto, casa ce l'ho un bel di anni questa lampadina. Apro il frigorifero, sento boom! E si è spenta la luce. Cazzo, qua, mi sono anche spaventato, lo sai. Certo, si è accoppiata la lampadina, si è accoppiata. Si è partita, non proprio, non è scoppiata, ha fatto pum, e però si è spenta, ha capito, di colpo. Io pensavo che fosse qualche cosa nel contattore. Infatti sono andato a vedere, niente, però l'acquario stava funzionando, ha aperto il frigorifero e funzionava, e cazzo, la lampadina. Tanto la lampadina mangiava una di chi antiquati, di chi che fa la luce gialla, sembrava la camera mortuaria, cazzo, ma carità. È andata in tilt, è andata, quindi vuol dire non serviva più la lampadina. No, Tomo, non mi hai capito, la cosa che mi ha fatto spaventare è che nel momento io stavo pensando, ho detto, cazzo, questa lampadina ce l'ho un bel di anni, come ho pensato così si è scoppiata. Vedi, dai, tu non dovevi dire nulla, si è fatta, si è vagognata, ti ha detto, beh, hai detto, te lo do Dio, ma si è accoppiata. Ha fatto un dispetto, avanti, ma noi, mi sono asciugato, tu cazzo, non sono un bel gente, che paro. Poi sono quelle lampadine che ho messo nella macchina, sono lampadine che costano 60 euro. Quella Xeos. Sono a LED, sono della Philips. Ah, già visto che in macchina a Rovuggio fate un bel di rusi quasi. Ma solo la lampadina cambi oppure devi cambiare tutto anche il portalampo? No, sono lampadine ho cambiato, non ce n'è, sono con gli attacchi come la lampadina che c'è. Ah, ho capito, che stava a 60 euro, io quella LED che ho comprato perché mi si era rotta, sono andato stamattina e l'ho comprata, l'ho pagata 6,80 euro, qualcosa del genere. La lente di dove? Cosa? La lente di dove? Dal faro? No, quella di casa, quella che mi si è fulminata, l'ho pagata 6,80 euro. È bagata da poco pure, bagata. Anche se no costano un bel di più, costano. No, io ho quella boccia grossa, ho. Ho della gioia roba di 7-8 anni ce l'ho. Non dirlo che anche io era così, l'ho detto, ci faccia. Anche io ce l'ho così, con la boccia, come stai dicendo tu, ce l'ho anche io così. Fa la luce tipo giorno. Fa la luce tipo giorno. Infatti, è sempre andando, non l'ha giù toccata a mano, manco va a prepararla. E io l'ho detto così, ho detto, cazzo, ce l'ho da un bel, mi ho fatto il calcolo, ho detto, cazzo, ce l'ho da un bel. Perché io mi ricordo che l'avevo comprata con un amico tanti anni fa, sarà 6 o 7 anni fa che l'avevo comprata. Come ho detto, ho aperto il frigorifero, io adesso non so se abbia fatto corto, cosa risolvo. Come ti hai già messo un frigorifero, ti dici, buh, e sei surato. Sì, vuol dire che se ne esaurendo in gira. Stava dicendo arrivederci, ti stava dicendo. E i LED comunque erano mal trovata, durano bene, non sono più come le lampadine col filo che si spezzava, te le ricordi le lampadine normali? Sì, a volte ti duravano 2D, 3D, al massimo ti durava. Poi gli durava un mese, però gli durava 3D. Sì, erano così. Infatti io pensavo che nel bagno mi si fulminava sempre questa lampadina. Da che andai giù un po' chissà, da quando pensavo che ci fosse qualche corto della lampada. Ho controllato, ho fatto niente. Poi ho messo quelle a LED. Mi lascio roba di 2 anni. A me mi hanno dato l'Enel, ma mi hanno dato due scatole. No, aspetta, tre scatole erano, ma le, dalle grandi alle più piccole, per la basù, per il co, ma va, me le avevano portate, quelle dall'Ene le avevano portate, me le hanno date tre scatole che le stavano dando gratis, loro le stavano dando a basso consumo. Fendigani. Io invece quelle che avevo, quelle che ti ho detto che facevo la luce gialla, le avevo prese al quadrato. C'era un periodo che tu portavi le bottiglie di plastica e ti davano le lampadine in cambio. Tu gli portavi, per dire, 10 bottiglie di plastica e ti davano la lampadina ogni 10 bottiglie, capito? Sì, la giubbotta io buro che sì. Io ci arrivavo un monto di impulli, ce li prendevo da noi, dentro il coso, trovo dentro le buste, e se che adesso ne ha già rigato. Ma non pare che ne ha fatto roba di vinti, e ne ha aiutato a tutti, ne ha aiutato. Questo a mio figlio l'hanno aiutato, che c'era un patto. Ma non serviva a nulla, quelle. Oggi sono andato a svittarla quella lì perché l'ho messa in emergenza, per non stare senza luce ho messo quella. Sono andato a svittarla, cazzo, mi si è grimbata, il vetro si è grimbato, visto come erano fatte, che c'era quella cosa esterna, che c'erano due, cazzo, mi si è grimbata proprio con l'umidaglia, ma non male, qui ce l'ho fatta da sotto a svittarla. No, io ce le ho tutte buttate quelle lampadine lì, ce le ho quelle che ancora, quelle che mi ha dato l'Ene, che sono a basso consumo, non consumano quasi nulla, si può dire, hanno luce però non consumano, ma tu c'ho quelle me qua in camera, ce le ho bianche, ce le ho a LED, poi c'ho una in cucina, in sala, una giù tre, e fanno un bel di luce, fanno bianche stesse. E poi sono in soggiorno. Io in sala ne ho due, ho le plafoniere, no, in sala. E una fa un bel di luce, l'altra ho sbagliato, invece di prendere la luce bianca l'ho presa la luce gialla. E ne mangio una gialla e una bianca. Chi sa bianca la sento sempre, chi sa gialla la sento mai. No, io ce li ho fatte così, ne ho due in soggiorno bianche, tre in sala, una in cucina e qua, due qua in camera bianche, perché i miei figli hanno l'olia bianca di volia, faccio con bagosa. Poi ce li ho qua, ce li ho accese. E io a camera da letto da così. Lampadine, perché lampadine è assi così, assi lampade. E vabbè, comunque quelle lì sono le più efficienti, piano piano me le cambio tutte, me le metto tutte uguali, così almeno consumano di meno, perché qualcuna ancora mi è rimasta di quelle normali, capito? E invece se tu metti quelle a LED consumano di meno, addirittura ne ho visto certe particolari da brico che si vede il filo tutto quanto, tipo una carica rimane così e si accende questo filo, si vede quando si accende. Ma non fanno molta luce quelli, li ho visti, quelli sono per i lampadari di gozo, di sala o co, ma non fanno molta luce. A LED quello che fa più luce sono quelli a LED. Quelli a LED sono micidiali e poi ti durano, io lo so anche dalla pila, quando andavo a pescare, la pila dura da una pila, se la accende, c'è due anni ferma, se la accende, accende ancora. Immaginati tu. Io ce l'ho una a LED, ce l'attaccavo al gommone, ma c'era Ruzzi, volte che faceva, proprio imbattia a buro. Ma lo faceva anche lontano la luce, me la faceva. La usavo in gommone di notte, la usavo. Ma che cosa dà a fare il bombarolo? No, c'ho questa lampada qua che la mettevo con il coso attaccato alla console, l'attaccavo e attaccato a quell'accendisigari ieri, che gli avevo messo anche quello lì. Come parliamo, una rusma, camminando, parliamo, illuminato a giorno, Maria. E poi lunga la luce. Infatti non veda. Cosa andava a buttare i parametri là? Qualche sabato d'estate sì, alle 9:30 lo buttavo e rientravo se o no un'oretta dopo, verso 10:30 rientravo, lo buttavo lontano e lo ritiravo la mattina. La mattina alle 6 ci uscivo prima che ne lo salpani, ci sia lontano e ne lo cavavo. E vediamo un bel poco di pesce. Un amico mio li buttava lì vicino a Marizza, zona di Sorso, roba lì. E per due volte le hanno rubati i parametri. E dice che era del gruppo così, era tintelli, che cazzo ha visto questa marchetta, è uscito un gommone e si è reso fuggito. Noi invece io, poi c'era quest'altro con il gommone, eravamo in tre, che ci avevamo quasi tutti e tre, quasi vicino i parametri. Siamo lì tagli di giù, venendo, e c'era allontanando piano piano, avevamo trovato i ruzzi. Piano ci siamo avvicinati, avevamo acceso tutti e tre, avevamo lì se ne sono uscito. Ed è scappato ed è arrivato fino all'arrivo, ha lasciato il gommone lì, per avermo tutto appeso il gommone. Il tubone è tutto aperto, ma ha toccato più dai chili. Ma lui ha fatto vigilare i maniglie, così non si poteva appuzzare. Oh, tutto bello era, aperto da una parte, sino ad andare all'altra parte, era tutto aperto, non si poteva più aggiustare. Perché deve essere l'ha rubato il gommone, se no non aveva lasciato in chimino. No, non era furato, perché l'abbiamo tentato e abbiamo saputo chi era. Faceva, usciva la notte a rubare il pesce dagli altri. Infatti era tutto un pesce, 30 gommone. Noi avevamo un bigliato tutto canto. Ce l'abbiamo diviso in tre, venivamo tutto bigliato. Quindi non avete più bisogno manco di salpare i parametri. No, l'aveva già salpati lui i parametri, l'unica cosa che abbiamo fatto è abbiamo preso tutti, i burini irani. Sai cosa avremmo? Se lo dividimmo? Se lo dividimmo? Siamo messo tutti nel gommone, ognuno si è preso tanto per il gommone e ce ne siamo andati. Se no, se ne avevamo, un 7 kg, 8 kg per uno di pesce. Io una volta dovevamo pescare al molo, avevamo messo le reti da una parte del molo all'altra con un pericolo, perché se passano le barche lì si incagliano tutte le eliche delle barche, un casino. E praticamente vedevamo che non mangiava il pesce e coso, e ci siamo messi a illuminare, sai come si fa illuminare nel molo a vedere se vedevamo qualche cosa, e abbiamo visto questo cordone, l'abbiamo tirato, cazzo, c'erano le reti tutte piene di pesce, via, pesca miracolosa. Certo, io se deve essere arrampato al buco, non è arrampato. Certo, lei non si può buttare lì. Ma stai scherzando? Non era al porto, sai dove era? Hai presente dove c'è quel cantiere nautico entrando per andare al Molo Asi, però invece che andare dritto vai verso sinistra, giri. E vai fondo in fondo e arrivi alla punta del molo, e lì da una punta all'altra deve essere, l'hanno portato con la barca da una parte all'altra, hanno messo la rete, proprio all'entrata. Ma lì non parlano altro che non è navi vicino. No, perché è dietro, non è proprio dove attracca la nave. Prima ti ho spiegato, non devi andare al Molo Asi, entri per andare al Molo Asi, però qui svolti a sinistra, subito, appena entri nel cancello svolti a sinistra, capito? Dove c'è il bar, eccetera. E praticamente poi c'è un cantiere navale, tu passi il cantiere navale, devi sambulare tutto anche il visore in gara, devo seguire, se lo sei attento. E io andavo lì la notte, andavo lì a pescare, era bellissimo, prendevo con certi grunghi, chi, mamma mia, grunghi, murene, di tutto. Prendevamo i filacciuri con la sardina, oppure con lo zarretto. Lo zarretto ti tirava più la sardina di manco, lo zarretto te ne fa meglio. E lo mettevamo appena di banchina e col barattolo, ogni tanto sentiamo. Sette, no, ci sono andato, mi hanno portato solo una volta, non vedo che andato più. Andavo sempre in fondo, andavo a pescare. Poi non vedo che andato più. Io a Morosi non ci sono mai andato perché come parti Morano avevo visto che cosa c'era. Si formava questa schiuma e stava anche per 20 minuti galleggiando, tutto il petrolio che c'era sotto, tutta, mamma mia che schifo, era la rapica e chi. Io non ci sono mai andato lì, io andavo dietro dove praticamente a Mare di Furia andavo, capito? Perché la punta ti portava a Mare di Furia. Io salivo sul muretto e andavo in fondo, andavo e prima di arrivare alla rete e mi fermavo lì vicino, mi fermavo, ma andavo io, non c'era nessuno, ma da voi come saranno arrivati tutti quanti, ed era pieno sempre. Sarà come la volta che ho scoperto la tana dove c'erano le seppie, dove in caso di prendere più di seppie, anche i 12 ne ho preso. Praticamente ho portato un amico e mi ha sputtanato il posto perché ha buttato la seppia che ha pescato sul molo, ha fatto il nero, hanno visto il nero e hanno cominciato a giocare ad una dire tutto pieno. Sì, infatti, se pieno benissimo, cioè quel pezzo lì non ci andava mai nessuno perché dovevi passare vicino alla rete e scavalcare la rete dietro. Ma vedi sul pezzo e prima non verrà mai nessuno, non andava mai nessuno, e pescavo benissimo. Ah, poi non è cubetto, non è visto niente, non è cominciato a entrare. Ho scavalcato la rete dal fianco. E entravano i ducci. E poi le cose, le guardie, hanno invogliato tutti a fuori, non sono tutti fuori. A Fiume Santo c'era una guardia che faceva entrare questo qua con la motocarrozzella e andava nei vasconi, siccome ci sono i vasconi, quelli che riciclano l'acqua, allora cambiano da calda a fredda. E lì entrano tutti i pesci, crescono dentro i vasconi, ci sono latte enormi, di tutti, di biurrizi, di tutto. Si vedono anche da sopra, tu guardi nel vascone e li vedi mentre guizzano, ecco. E non si può entrare però, capito? Questa guardia giurata conosceva questo tipo, lo faceva entrare, iniziavo 5-6 orate di chi si vale da 3 kg e mezzo a 4 kg, e ne regalava una e se ne andava, capito? Ma di entra sempre. Sì, io ci sono andato io lì. Lì conoscevo, anzi ce ne sono andato in pensione. Conoscevo quelli che facevano le guardie lì. E mi chiedevamo se potevamo entrare. Dice, però non vi fate vedere. E noi eravamo vicino al vascone. Ma sai un bestio che ne avevamo cavato dai chili. Ui, mamma mia. Per il primo sabato, per il secondo sabato, per il terzo sabato, più di 2 mesi mi sono mandati in chili. Poi hanno detto che non volevano far entrare più nessuno, non ho fatto più entrare a nessuno. E lì c'è il mondo che dice, quando non ho fatto più entrare nessuno mi cava ancora di più. Quello, avevo la moto carrozzella, entravo dentro, mi dicevo una moto in tagarica di invece, ne regalava uno, due, la guardia giurata, si è fatto il gioco, capito? Quello si guadagnava il pesce. E infatti anche noi facevamo così, eravamo in quattro, entravamo tutti e quattro, poi siamo entrati dall'altra parte, siamo entrati dove c'era la spiaggia, e peschevamo da lì, peschevamo. Buttavamo quasi vicino alle rocce, che c'erano le rocce. Una volta si è entrato dentro in Eva, in chi vi ha piccato, di tutti. Con la torcia, e siamo entrati lì. Dei mostri vedevamo, latte, e così vedevamo, spigole, ma spigole grosse, mi. E gli hanno giubilato 5 o 6 hanno giubilato di quelle spigole lì. E c'era uno, quando andavo di notte a pescare, era il Monocattaneo, però non era il Monoasi, non so se sei dove il Monocattaneo. Allora le navi non entravano, entravano le gasiere e poi avevano tutto abbandonato e non attraccavano più. Quindi in periodo che non c'erano le gasiere, c'erano praticamente delle rientranze nel muro dove tu se pioveva ti potevi mettere sotto, capito? E fatto sta che andavano lì a pescare, c'era uno che trova a fare pesca sul mare. Si dice a Guraunta e con tutto un pesce, a Cragirone che si aveva pulpi o cosorate, una volta aveva via un grongo che gli toccava a terra, da rimpalli gli toccava a terra, figurati che a terra mano. Sono stato il volto d'Orresio che entrava lì, entrava. Perché io non ho conosciuto uno, entrava lì entrava dalle rocce e andava a finire. Sopra io ti parlo fuori però. Entrava. Allora andava a uscire a fondo dove c'era il faro, c'era presente dove il faro, alla fine di Monoasi, di Monocattaneo, cioè. Andava lì dove proprio dove ci sono le luci, scendeva da lì e poi faceva il giro dietro e guarda, ne usciva sempre con un bel di pesce, sempre pieno. Perché ci sono i buchi, ci sono i buchi grandi e loro entrano dentro lì, entrano. Se dovevano uscire da lì, si acciappava, tutti i danazzi si acciappava. Ma non so se perché sono entrato una volta io lì a pescare, ho tolto fuori 3 orate io da lì, che mi ha fatto vedere questo qua di Porto Torres. Dice sono dentro la faccia nei buchi e tu li vedi davanti lì, ma una orata gatta grosse, spigole hanno finito. Gatta venire o non be finire. E ma prima io mi ricordo che andavo lì alla prima curva che c'era, non andavo manco lontano, alla prima curva, mi fermavo lì, andando a Molasi, no, a Monocattaneo. La prima curva mi fermavo, lanciavo, mettevo i cucchiaini, andavo, perché allora pescavo con le cozze, no? E c'avevo il raschietto di quelli da muratore con il manico lungo. La schiave sotto ci mettevo il corpo e prendevo le cozze. Mettevo 2 o 3 cozze e buttavo le canne e poi andavo a prendere le altre, no? Di modo che recuperavo un po' di tempo. Insomma, come insomma, tutti i cucchiaini, c'era da diventare scemo. Una volta è partita la pressione, io non avevo mai visto la pressione partire così, impazzita, ci aveva messo il piede sulla canna, se no me la buttavo in terra. Poi ho sentito, mi ha fatto la matassa, come la stavo facendo girare un mese, invece era troppo aperta la pressione, mi ha fatto la matassa e punta e mi ha spaccato la lenza, ma chi se la pesce umana a vita. E sicuramente l'abbè ci mandano a vivere così. Certo, no, lì ho fatto anche io le cozze lì. Ho fatto un raschietto, non l'ho fatto. Come entravo le cose, mi saliva il pezzo delle cose, mi si agganciava. E la portavo su. E ne dava tutte, ne davo. Non è che ne vazia un bene, ne vazia. C'erano cose che bariano i borsaccieri da cattere animali. Io a volte praticamente per divertirmi ne prendevo una di cozza, la pivo e li mettevo tanti ami piccoli dentro e ci andava di Sara che mangia la Sara, che spara gli uni. Allora che tu ne pigliavi. Sì, infatti di lì si pescava molto, ma poi non è andato più a entrare nessuno, infatti mancava si può entrare. Oh, adesso ci sono le guardie, all'entrata ti chiedono i documenti, io sono andato col furgone a fare una consegna, una nave, e mi hanno chiesto i documenti all'entrata, poi quando sono uscito me li hanno tornati. Ti chiedo i documenti, non ti fanno manco entrare senza documenti. No, infatti è così. Adesso non fanno entrare più a nessuno. Poi c'ho pochi roghi da andare a piccare. Ma da Franco bisogna non faccia. Ma dimmi, mi faccia arrigare. Vedi che fa un freddo a minuti. Cioè lui ci fa col camper. Adesso per i calamari, lo sai quanto è bello. Dimmi un bel, ma ti mi anche un bel di freddo. Ma la cosa vedete, lì si anda a pescare, a fare calamari, e buon guramutta mi bongo, e anda in cibi guramutta. No, io già ce l'ho la tutta, c'è cioè, pantaloni felpati, quelli di nylon fuori felpati dentro, c'ho cioè, il giubbotto, quello grosso, però per sempre prendo la faccia di bigliasetto. Infatti è così, no? Ma no, io a me ancora la muta, ma mi voto da Dagoso, mi voto, la Cibacco. Entro con la canna a fare calamari, ma me ne vorrei chiamare un poco. Se mi dai parlo un ragno. Ma se ne affutti, ma se ne ti passare di nuda a Rubuggio. Comunque c'era un periodo, c'è dove Balai vicina, la chiesa di Balai vicino, quella che è illuminata, non quella di Balai lontana, quella di Balai vicino, la prima chiesa che trovi entrando a Porto Torres. Quella lì c'è la luce, ci metti sotto il faro, segato nei bici. Sì, ma viene male a scendere, hanno fasciato la stranina, hanno fasciato. Non so cosa che di notte io temo nelle luci, della volta che siamo in commessa farà due, mi gioca sul tardi, siamo andati a Stintino, prima ci fermano i carabinieri, ci andate dalla macchina, questi carabinieri giovani, ci andate dalla macchina, aprite il cofano, dove sto tornando a pescare, ci hanno visto le carni, dove andate a pescare, dove abbiamo letto il posto. Dice, vabbè, dopo veniamo a trovarvi, se vi fa piacere, passate, dopo dobbiamo passare lì, vai. Questo sta che andiamo a pescare e questo amico mio ha preso la mia pila per allontanarsi. Io lo chiamavo, Antonio, e non rispondeva. Sento questo rumore di barato, Antonio, questo c'è il gobbo, Antonio, che se non se la farà di giosso, con un gabbo a nulla, non leva, ha fatto il tempo e partono, poi sono arrivati quei carabinieri, e beh ragazzi, pescando, sono stati, aiuto, cosa è successo? Sono scesi giù, ci hanno dato una mano, l'abbiamo portato in su, l'abbiamo portato prima alla guardia medica, l'abbiamo ripilato. Se è tutto sciumpiato, se è fratturato il braccio, se è praticamente tutto sciumpiato in faccia, nelle braccia, voi. Ma gli è andata bene che io sono riuscito a toglierlo dall'acqua, se no sarebbe morto. Ma sono affogato, Sarizia. Aspetta, no, se rimani vicino, tutti e due insieme, ma no, allontanarsi, andarsi a rasura. Invece un mio è caduto e si è fatto male. È scivolato, in quella merma che c'è nelle luci, ce l'è presente, è scivolato lì. Ma ha fatto un bel ruzzolone, mi si laggiù. Io dico che senza cambio gappa si lamenta, cazzo. Meno male che c'avevo la pila, cazzo, sono riuscito a toglierlo fuori la testa dall'acqua, perché sennò cazzo sarebbe morto. Era svenuto, cazzo era svenuto, meno male se avevi diviso che la poveri mi hanno dato una mano. Cazzo, dice meno male siamo venuti a farvi visita, e mi pare che la visita è fatta in su. Gianni. Infatti io dalla porta alle luci non ci vado più di notte, né di notte né di giorno, c'ho paura, perché quella a me la ti fa di scicà e ti trucchi le ossa. No, dove va Franco dice che scendi, una cosa è tutto in piano, con la canna da pesca butti, lo fai buttando, tirando si aggancia, il calamaro si aggancia. Ma la lenza quando la butti lontano si agganciano, e lì dice che è molto bello, dove va lui. E i calamari sono predatori, come tu la lanci la vedono scendere e si tirano, perché vanno anche in bracco, capito? Quindi ce ne sono tanti, se tu trovi il bracco sei a posto. Poi io ce n'ho parecchi, ce n'ho che li usavo nel gommone, li usavo. E poi cioè, si illuminavano. Poi c'avevo anche quelli che di notte si illuminavano con la pila. C'avevo. Ma ce la dovrei avere ancora. Poi c'ho quegli altri che sono... che diventano lucidi, diventano. Ah, io ho quelli fosforescenti, gli davo un colpo di flash e si illuminavano, e poi come erano illuminati lanciavo. Ma sono troppe, cioè, troppe cose, basta, non è più cane. Mi piaceva, prima ero un bel appassionato, adesso un po'. No, mi piace, però sono tutti a lui, dove vado, cazzo, magari perdo l'equilibrio e ti fare male. No. Va bene, dai. Ogni marito, io sto andando che Teso mi sta chiamando, Otto. Ci sentiamo, dai, buona serata, grazie per il questo. Alle prossime già, ci risentiamo. Alle prossime, ok, ciao già, stammi bene. Ciao, saluti anche a Manuel e a Luca che non sono più entrati, dai. E tutti gli amici che sono in ascolto, ciao. Ciao agli ascoltoni, ciao a tutti.